Ehi, gentaglia sparsa là fuori. Ehi, anime dannate nel vostro pigiamone sgualcito. Sono le 7 del mattino di una nuova sfida. Una nuova giornata da affrontare assieme, se la vorrete, alla vostra radio rock preferita, nonché l'unica. Giovedì 3 gennaio 2008. Ad augurarvi anche quest'oggi la buona giornata, la voce dell'Ariele. Eccolo qui, pronto a servire anche stamane la colazione più rock d'Italia, che risponde al nome di pane, burro e rock and roll. Seconda puntata, o meglio la 153. No, ricominciamo col doppio calcolo. Ai ai ai ai. Pane, burro e rock and roll. Tracu tracu tracu tra. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Sveglia, forza, giù dalle brande, ragazzi, si ricomincia. Altro giro, altra corsa. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ringraziando sempiternamente Ian Dury che ci ha regalato Sex, Drugs and Rock and Roll, si è trasformata in pane, burro e rock and roll. La sigla della vostra trasmissione di riferimento nel mattino di Rock FM. Allora, come va là fuori? Tutto a posto? Tutto bene? Qui nella nostra sede, nella penombra, perché noi trasmettiamo al buio, sia chiaro, per così una sorta di sinergia con voi là fuori, al buio tranne che per il lampione crepuscolare. Vi arriva il buongiorno anche dal nostro regista maldestro, detto Spadino. Buona giornata, caro, in attesa dell'arrivo di Roberto Fricantoni. Anche stamane 2 ore a nostra disposizione che sfrutteremo al peggio, ovviamente. Getteremo via queste 2 ore come da contratto, d'altra parte. Quasi rinnovato, Spadino, Adesso vedremo, ci stiamo lavorando. La terza giornata del nuovo anno 2008, l'anno della svolta. E anche quest'oggi, come ormai stiamo prendendo d'abitudine, il primo brano è il brano un po' per svoltare la giornata, almeno questo è l'obiettivo. E come svoltare la giornata se non con una bella schitarrata, no? Beh, se siete sintonizzati su Rock FM dovreste apprezzare. Sentite qui. Avete bisogno della carica giusta, dell'energia, di un po' di dinamite. Ce l'abbiamo. Sì, sì. La dinamite qua non manca mai proprio. Altro che razzetti di Capodanno. Ladies and gentlemen, stamane si inizia con AC/DC, TNT. Ve la facciamo passare noi la carogna. State qua. facciamo esplodere noi stamane. Vai, sali, sali, sali, sali. Anche Mister Trombetta. AC/DC, che roba, ragazzi. Bene, bene, bene, bene, ottimo inizio. Il piede giusto. Il piede giusto per scendere dal letto. Buona giornata, amici e amiche là fuori, pronti a seguire con interesse una nuova puntata. Spadino, vediamo di azzeccare le basi, per favore. Altrimenti, fuori che faccio da solo, eh. Permettetemi, scusate. Sembro tanto tranquillo e rilassato quando arrivo in radio. In realtà c'ho una carognetta stamane che era... Beh, gli AC/DC me l'hanno levigata bene, devo confessarlo. Però, vabbè, affrontiamo la giornata al meglio. Vi ricordo un paio di coordinate, volendo, per costruire insieme questa trasmissione. Anche se abbiamo annunciato ieri queste prime tre puntate dell'anno, sono le classiche puntate di ricomincio, no? Utilizzando la grammatica italiana a nostra disposizione, le prime tre puntate di ricomincio sono quelle per prendere le distanze, no? Ok, questo è il microfono, eh? Questi sono i tastini, così sparisce la base, visto? Questo è Mister Trombetta, insomma, quello è il lampione crepuscolare, il treno di Freak è arrivato adesso, quelle robe lì, insomma, per riprendere un po' l'abitudine, no? Dopo la pausa. È vero che è un po' come andare in bicicletta, fare la radio, però uno no. Quindi soprattutto per quanto riguarda l'interazione, la stiamo prendendo molto easy, come direbbero i giovani. E noi siamo giovani, quindi possiamo permettercelo. Anche voi siete giovani e quindi potete permettervelo. È un'interazione un po' così, più tranquilla, rilassata. E siamo più interessati a proposte che non a interventi, ok? Io vi ricordo il numero di SMS, è sempre utile per interagire, che è il 335 100 77 77. E ne approfitto per ringraziare al volo il classico Andrea, che giustamente mi chiede: scusate, ma oggi c'è il lotto? Allora fate bene a dirlo, perché io non ricordo più nulla. Vediamo com'è segnato Carlo il tabaccaio. Giovedì e martedì, hai ragione, oggi dovrebbe esserci il lotto. Controlliamo, facciamo una chiamata al volo al nostro tabaccaio e vediamo se si ripiglia già oggi oppure no. Sapete, siamo dei cialtroni, abbiamo bisogno del vostro così richiamino, no? Un richiamino era un'altra cosa, vabbè. Facciamo finta di nulla e proseguiamo con un po' di sano rock and roll targato Doobie Brothers. Yeah. Ottimo brano per sfilarsi il pigiama, eh? Mettere su. Vestitevi. Beh, fa freschino fuori. Sì, sì. Fa freschino fuori. Come smile. It ain't so hard to do if you know how. Got and the crowd is growing bigger. Cantoni, la paghiamo e allora saluti, ringrazi il suo pubblico. È il minimo sindacale, ma certo, lo faccio volentieri. Vai. Ciao radioascoltatori e radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Buona giornata, un buon 2008 e un buon giovedì 3 gennaio. Esatto. Ah, quando mi si tuffa sul giorno è perché c'è puzza di almanacco. Naturalmente sì. Deve essere 150 puntate che facciamo l'almanacco a quest'ora. Ma è sempre interessante, bello iniziare con le notizie dell'almanacco, per le quali ringraziamo la nostra redazione fluidissima, la nostra ineccepibile, infaticabile redazione. Era il lontano 3 gennaio del 1496 quando un certo Leonardo da Vinci sperimenta senza successo purtroppo una macchina volante. Macchina volante che verrà messa a punto molti anni dopo, come diceva il grande pittore Pablo Picasso, c'è il creativo che ha l'idea, 10 anni dopo arriva uno che gliela babba e gliela mette a punto. Sa cosa disse il Vasari in occasione della sperimentazione del Leonardo da Vinci? Sì. Il Vasari racconta lo storico che quando Leonardo cadde si espresse in un vernacolo tradizionale dicendo Maremma maiala. Ci sta, può essere. Passiamo alla notizia successiva. 1521, colpo di scena. No, anche nel 2008 torna l'ineffabile Mike. Eccolo qui, Mike. Buongiorno a tutti. Corpo di Fricantoni. Buongiorno a Vuole tutti. Dare la notizia? Ho preso possesso del corpo di Frick per dare la notizia. Sta dentro anche stretto, diciamolo. Un pochino, è vero. Mi sta un po' stretto il corpo di Fricantoni. Notizia, dai. 1521. Sì. Papa Leone X. Sì. Perché hanno fatto Papa un leone? No, ma cosa dice? Leone il nome? Per Leone Papa X è 10, decimo. Ah, Leone X decimo. Romano. Sì, sì, sì. Scomunica Martin Lutero. Martin Lutero, non faccia lo stupido, la prego. Lutero. Allora, la redazione mi metta l'accento al posto giusto, eh. Allora, scomunica Martin Lutero con la bolla Decet Romanarum Pontificarum. Decet Romanum Pontificem. Allora, la redazione, non so leggere il russo, È latino. Scrivere in buon italiano. Passiamo alla successiva, 1954. Un anno fantastico. Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive su un unico canale, quello della RAI, Radio Televisione Italiana. Ecco, c'è una cosa che non capisco, però, l'acronimo. Non si dovrebbe RAI Radio Televisione, non si dovrebbe dire RT Radio Televisione Italiana. Sì. Oppure Radio Audiovisione Italiana. Esatto, la dizione giusta perché mi torni l'acronimo sarebbe RAI Radio Audiovisione Italiana. Infatti mi permetto di dire che in questo la Svizzera è sempre più avanti, perché in Svizzera c'è la TSI, Televisione Svizzera Italiana. Esatto, l'acronimo perché noi torna, dobbiamo avere perfetto. RAI, o ce la chiamate RT e va bene, oppure la chiamiamo Radio Audiovisione Italiana. Infatti adesso scrivo caro direttore. Intanto io, mentre lei scrive la lettera di lamentela alla RAI, vado al 1984 quando purtroppo, brutta notizia, viene annunciata la separazione dei Police. Ma non pianga, so che lei stava per piangere, eccolo lì, perché finiamo con una bellissima notizia. 1987, la mitica Rita Franklin. Think. È la prima donna che viene inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Grande Rita! Grandissima Rita, la prima donna ad essere inserita nella Rock and Roll Stanza della Fame. Evviva! Un bel applauso per Aretra. La Aretra, lei è scemo. Lei è scemo anche nel 2008. La ringrazio. L'acuto di Aretha Franklin non mi viene, eh? Ma ci sto lavorando. La colazione di Rock FM. Però il balletto mi viene, visto? 7:20 minuti primi. Allora, vediamo di prendere il filo di questa trasmissione. Vabbè. Raccattare il filo di sta trasmissione è impossibile. Però vediamo di organizzarci bene per il futuro, per questo 2008, l'anno della svolta. Pronto Carlo, ci sei? Ciao, eccomi qua. Bentornato. Sì, qui. Il nostro tabaccaio di riferimento della prima mezz'ora, tabaccaio qui a Milano, che nel corso del 2000, della fine del 2007 dava i numeri del lotto, solitamente sbagliati. Sì, esatto. Allora. Niente, si ripiglia ovviamente la rubrica sui numeri del lotto, quello per forza, perché non so se te l'ho mai detto, ma ho ricevuto telefonate di signore. Ah, addirittura. Sì, di signore. E chiedevano: l'avete già fatti i numeri del lotto? Sì, sono loro le più assidue, effettivamente. Sono il reparto femminile, quello che segue di più. Con diciamo. Non con so l'attenzione. Se ti stava uscendo un altro termine, per fortuna non ti è uscito. Le sciure. Sì, esatto, le sciure dalle nostre parti, dalle altre parti, non so come si chiamano. Vabbè, gli Umarels. Come direbbe Freak, gli Umarels. Sì, magari le mie origini genovesi anch'io non riesco purtroppo a essere molto affine a quel dialetto, perché non ho mai frequentato la zona più di tanto. Non so quindi. Se hai sentito la trasmissione ieri, ma abbiamo una nuova rubrica per quanto riguarda il dialetto. resta con noi. Ah, sì, ho sentito, infatti, sì, che c'era quel tipo. Ieri abbiamo iniziato col calabrese, stiamo lavorando sul Dolomitico. O oggi o domani attacchiamo col Dolomitico. Ma questa è un'altra storia. Avevi un ternino, un ambino, qualcosa da dare? Sì, io ho una quaterna. Ehi, quaterna, via. Sì, diciamo, partiamo dal terno, ma che sto seguendo dall'inizio di... Cioè, ricordiamo ai rocker puristi che questi sono numeri rock, non escono. Ma se escono, escono. Ma se escono, come è uscito a dicembre, uno va a casa con un bel po' di grossa. Vabbè, vai, dalli. Allora, 22, giubbotto di pelle. Che è rock. 88, la moto rombante. Aspetta, ma nella smorfia c'è il giubbotto di pelle? C'è il giubbotto e basta. Di però pelle ce l'hai aggiunto tu. Di pelle ce l'ho aggiunto io. Allora, sì, 22 più... più l'88 che è la moto rombante, okay. 25 il Natale, e se si vuole aggiungere per fare la quaterna 9 che è la canzonetta, quindi sono numeri che fanno riferimento ovviamente alla canzone di Natale di Pane, Burro e Rock and Roll. Esattamente, sì. Che tenero, Carlo, ti tornerà tutto indietro come un boomerang, ricordatelo. Senti, anche se siamo in ritardissimo, io devo farti una segnalazione. Beh, prima di tutto, come sta Carla? Ah, sta bene, oggi sta sicuramente bene, perché la sto aspettando da un momento all'altro. Salutacela e mi raccomando, con diplomazia convincila a diventare un inviato di Pane, Burro e Rock and Roll, perché c'è gente che mi chiama solo per sapere come sta Carla. Intanto salutaci. Io farò di tutto, farò il possibile, ma sai, purtroppo devo riuscire a sintonizzarmi sulle sue frequenze, quindi... Vabbè. Seconda cosa, in pause tra una cosa e l'altra, Natale, feste, bevute, roba così, mi è capitato di intravedere, insomma, questo spazietto del lotto fondamentalmente fa riferimento a quelle trasmissioni televisive sui numeri del lotto. Ne ho beccato uno di Pescara, adesso non ricordo come si chiamasse, che oltre ai numeri mi faceva anche un po' da mago. Ah, pure. Carlo, secondo me dovresti un po' allenarti. La cosa che mi faceva sbiellare di sto tipo è che dava delle previsioni veramente pessime. Ah, quindi proprio una rovina totale, insomma. Veramente pessime. E secondo me ci si dovrebbe lavorare su, insomma. Non so se te la senti di fare il mago, però... Io proprio non ci capisco niente di dentro, cioè, sai che io proprio in quelle cose... Ma sai che chi ha Pane, Burro e Rock and Roll, anche se non ci si capisce niente, lo si spinge dentro a forza, ci sta, via, Infatti, diciamo che la cosa migliore sarebbe affidarci a questo punto, allora, come si diceva prima, la Carla, che lei sa che coi tarocchi... Ma Carla sul tarocco, secondo me, non accetta. Beh, vediamo, insomma. Ma fare il mago, guarda, non è il casino. Lo so, no. Dai, va bene, resta sul lotto e poi vediamo. Ci sentiamo domani, Va bene, se ci fai sapere com'è andata. Buona giornata, un abbraccio a Carla, ciao. Anche te, ciao. Con questo strano gioco per il quale lui si chiama Carlo e lei Carla. Guarda, inquietante, Arriva lui, Mr. Alice Cooper, il vostro incubo mattutino. Alle 7:24 minuti primi, Billion Dollars, baby. Yeah. 335-100-7777 e costruisci sta puntata, no? We'll be right back.